A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. I morti diventano cittadini italiani, i sopravvissuti vengono indagati per immigrazione clandestina. Ci sono tutte le contraddizioni dell'Italia nelle due facce della sciagura di Lampedusa: la commozione per le vittime e i funerali di Stato da una parte, l'applicazione della legge dall'altra. E sarà uno dei temi di cui discuteremo. Una vergogna l'ha definita questa norma il premier Enrico Letta davanti alle bare di Lampedusa, ma è legge dello Stato italiano che ora, dopo i 300 morti, il Parlamento sta cominciando a modificare. Ed è proprio un percorso nelle contraddizioni delle norme, ma anche nelle vite e nelle morti che sono dietro gli sbarchi, questa puntata di A ciascuno il suo. Dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Lampedusa si vede distintamente il punto dove l'ultimo barcone è affondato, alla Tabaccara, col suo carico di 500 vite. Ma ci sono momenti in cui in questa piccola stanzetta, con tre schermi e due radio, che non hanno neanche il tempo di guardarlo, l'orizzonte, perché uno dietro l'altro vengono avvistati i barconi, spesso in difficoltà, e loro corrono in mare ad aiutarli. Ma una volta che questi eritrei, somali, nigeriani e siriani strappati al mare mettono piede nella nostra isola più meridionale, subito vengono d'ufficio indagati perché immigrati clandestini. Allora partono le inchieste, si avviano le pratiche e le verifiche, ma tutto è destinato a finire in un nulla di fatto, solo costi e tempo per la giustizia. Dal 2009, anno di introduzione del reato di clandestinità col pacchetto sicurezza, ad oggi sono stati 13.000 gli indagati ad Agrigento, la procura competente, cioè su Lampedusa e Porto Empedocle. Molte di meno le condanne, quasi nessuna invece le pene pagate, perché quella sanzione, fino a 10.000 euro, gli immigrati non saprebbero proprio come pagarla. E allora ecco che è tutta una perdita di tempo, ammette senza giri di parole il procuratore di Agrigento, Riccardo Di Natale. Noi, per la maggior parte dei soggetti, abbiamo richiesto l'archiviazione, ritenendo che il fatto fosse di modesta esiguità dal punto di vista del danno sociale, dal punto di vista del grado di colpevolezza, anche in relazione alle condizioni che muovevano questi soggetti a venire in Italia. È stato concesso nei confronti di taluni di questi asilo politico e quindi è stata dichiarata l'improcedibilità. Per il resto, la nostra richiesta di archiviazione non è stata accolta dai giudici di pace, che ci hanno rimandato indietro i fascicoli affinché formulassimo un'imputazione coatta. In dibattimento abbiamo fatto un'eccezione di costituzionalità, ma la Corte Costituzionale ce l'ha rigettata, per cui questi soggetti sono stati o condannati o sono tuttora a giudizio. Ma sul totale degli indagati, dei 13.000 indagati, per capire quante volte... Non abbiamo questa stima. Posso soltanto dirle che vengono condannati a una pena dell'ammenda che non verrà mai pagata, perché ovviamente questi soggetti non sono in condizione di farlo, di reddito alcuno, quindi è un grosso lavoro che viene posto in essere con degli esiti, mi permetterei di dire, inutili. La norma è stata creata come deterrenza all'immigrazione clandestina, ma abbiamo visto che così non è. Voi che avete chiesto l'archiviazione, i giudici di pace ve l'hanno respinta, che laddove c'è stata l'imputazione coatta, anche quando si arriva ad una condanna, di fatto è tutta una perdita di tempo. Sì, nella buona sostanza sì, sono lunghi tempi che la giustizia ad opera per arrivare a una condanna, eventualmente ad una pena dell'ammenda. Che però non è stata praticamente mai riscossa. Temo che non sia stata mai riscossa. In quali casi, diciamo, almeno come tipologia, la vostra richiesta iniziale di archiviazione è stata respinta poi dal giudice di pace, quindi ci sono stati anche dei processi? Il giudice di pace ha ritenuto o di fare ulteriori indagini per accertare le condizioni, i luoghi di provenienza, le condizioni, eccetera, indagini tutte estremamente difficili, perché sono indagini che bisognerebbe esperire nei luoghi di provenienza, dove sappiamo bene che per ragioni politiche o di guerra interne non è possibile avere in merito notizie, oppure perché ha ritenuto che, non avendo noi fatto questi accertamenti, bisognasse andare comunque a giudizio. Quindi, procuratore, mi sembra proprio di capire, lei insomma, l'ha anche già detto poco fa, che di fatto tutte le procedure che a voi comunque obbligatoriamente per legge dovete fare per fare tutte le indagini per il reato di immigrazione clandestina, quantomeno vi tolgono tempo per occuparvi di altro anche in questo settore. Sicuramente, perché per ogni soggetto va iniziato un procedimento con tutto quello che comporta all'inizio del procedimento, e non mi soffermo a dire che questo soggetto, che nel momento in cui arriva a Lampedusa o a Porto Empedocle, abbiamo delle generalità che potrebbero essere vere o non vere, quindi spesso sono sedicenti, bisogna fare accertamenti per verificare l'identità esatta dei soggetti. Nei tempi dei procedimenti, delle indagini, questi soggetti vengono trasferiti presso centri di permanenza sparsi in tutta Italia. Quanto poi dobbiamo notificargli qualche atto, abbiamo grossissime difficoltà in merito, e spesso, quanto poi potremmo arrivare eventualmente ad una condanna, questi soggetti magari si sono dispersi o nel territorio italiano o nell'Unione Europea o nel territorio europeo, e non sappiamo più dove rintracciarli. Certo, e questo per non parlare poi qua in quanto questo si traduca anche da un punto di vista di costi. Forse è una delle voci più significative per i vostri uffici giudiziari, il costo riguardante a questo tipo di indagini. Certo, sia a livello di personale, di polizia giudiziaria, di attività connesse a tutte queste vicende, perché poi ci occupiamo di questa immigrazione clandestina, questo reato contravvenzionale, ripeto, ma dobbiamo anche occuparci di tutto quello che è connesso a questa immigrazione clandestina, cioè favoreggiamento. Cioè, ci sarebbe da indagare anche su tutto quello che c'è intorno e dietro ogni singolo sbarco. Chi lo gestisce, con quali aiuti, con quali basi in Italia e ancora con quali scopi. Se insomma quei barconi appesantiti da gente stipata come sardine rientrino in un disegno criminale più ampio, in una rete. Per il naufragio di Lampedusa le indagini sono state raddoppiate, una nella città dei Templi, un'altra a Palermo per l'ipotesi di tratta di esseri umani, perché, come sentiremo più avanti, questo dicono gli indizi dall'altra parte del mare. Ma la maggior parte del tempo ad Agrigento devono spenderlo invece a istruire inchieste che affollano solo le scrivanie degli uffici e le ingolferanno del tutto se nel frattempo non sarà cambiata la legge, perché i dati investigativi, la situazione internazionale e le intercettazioni delle inchieste dicono che i viaggi dall'Africa si moltiplicheranno. Gli ultimi indicatori già lo segnalano. Aumentano gli immigrati irregolari, diminuiscono i permessi per motivi di lavoro. Nei primi 8 mesi del 2013 sono state 21.241 le persone sbarcate in Italia, ma la guerra in Siria e la situazione di confusione della Libia fa facilmente prevedere che la cifra è destinata a salire. E di molto, perché al momento a chiedere asilo sono in prevalenza ancora eritrei, come le vittime del naufragio, somali ed afghani. L'inizio della primavera araba nel 2011 portò ad un impennarsi degli arrivi. 62.692 persone, calcola il Censis, attraversarono il mare, partite soprattutto da Tunisia e Libia. E ben presto si parlerà di nuovo di emergenza, anche ufficialmente, come aveva anticipato a Radio 24, prima della sciagura di Lampedusa, il vice ministro al lavoro e alle politiche sociali Cecilia Guerra. Ed emergenza vuol dire pure finanziamenti del governo centrale. Se gli sbarchi aumentano, diminuiscono invece drasticamente i permessi di soggiorno concessi per motivi di lavoro nel 2012, meno 81% rispetto al 2010. La ragione è la crisi. La stessa che spinge sempre più i migrati a considerare l'Italia solo terra di transito verso il nord Europa. You know, coming here to Italia, to go to Almania, Germany or to Sweden. La Svezia o la Germania è la destinazione di Omar, siriano, parcheggiato ora anche lui al centro di accoglienza di Lampedusa come molti altri. Chi sbarca in Italia ha già una meta in testa in genere, ma ha soprattutto alle spalle mesi di un viaggio pericoloso e organizzato che fa guadagnare milioni di euro a reti criminali, come sentiremo nella seconda parte di A ciascuno il suo. A ciascuno il suo. This is no organizer. One. This normal people do this. business, danger business. It's taking from everybody more than $2,000 and with small place, 200, 300 people, 400 people. Qualcuno ha pagato 1000, qualche altro 1500, 1600 dollari. Dal viaggio del peschereccio, naufragato al largo di Lampedusa la mattina del 3 ottobre, ha guadagnato $1 milioni la rete che l'ha organizzato e altrettanti, se non anche di più, ne incassa ad ogni partenza ogni gruppo che fa affari con la disperazione delle famiglie in fuga da guerre e fame. Dalla partenza all'imbarco, dal deserto al mare, da un gruppo all'altro ma unito in una stessa rete. Emerge questo dai racconti anche dei superstiti del naufragio di Lampedusa, come questo, che hanno portato all'arresto del presunto scafista, Khaled Ben Salem, 35 anni, tunisino, che già ad aprile aveva guidato fino alle coste della Sicilia un barcone di migranti. The captain about the fire, lighter. E sarebbe stato proprio questo white man, come è stato chiamato dai testimoni, a dare fuoco alla coperta per farsi notare in mare, come racconta Awek, eritreo che incontriamo al centro di accoglienza di Lampedusa. Anche la sua testimonianza ha portato al fermo dello scafista chiesto dal procuratore di Agrigento Riccardo Di Natale. L'imputazione, diciamo che dando personalmente fuoco alle coperte o lenzuolo o che altro, o impedendo che qualcuno desse fuoco al comandante, risponderà almeno per noi del reato di naufragio e di omicidio volontario. Nel primo interrogatorio che ha reso a voi nega di essere lo scafista, dice di aver pagato anche lui la sua quota. Dovrà provare che le cose siano andate così dinanzi a delle precise indicazioni fornite da alcuni dei migranti. Alcuni lo hanno direttamente riconosciuto in foto, alcuni hanno ricostruito le fasi della vicenda confermando che questo soggetto o questi soggetti, i due white men, fossero coloro che gestivano il trasporto. Da un punto di vista proprio tecnico, i processi come vanno a finire? Perché ovviamente l'elemento cruciale è la deposizione dei sopravvissuti, quindi che devono Perfetto. Confermare la loro versione in aula, giusto? Perfetto, infatti qui c'è un'ulteriore difficoltà che incontriamo, perché noi riteniamo che le deposizioni dei migranti debbano essere raccolte nel corso di un incidente probatorio, perché se questi soggetti si allontanano dalle strutture in cui vengono tenuti attualmente, evidentemente avremo un processo vuoto. Allora solo con l'incidente probatorio si può colmare questa lacuna. Speriamo che il GIP, perché in altri casi non ce l'ha concesso, in questo caso voglia accogliere la nostra richiesta di incidente probatorio che andremo a fare da lì a qualche giorno. Fino adesso com'è andata? Cioè i processi agli scafisti, anche quando sono stati individuati, si sono risolti spesso un po' in un nulla di fatto? In taluni casi sì. In altri casi abbiamo ottenuto la condanna, ma quindi è tutto oltremodo difficile. Immagino. Anche in virtù dell'esistenza di questo articolo 10 bis della legge del 2009, che prevede che questi soggetti nel momento in cui entrano vanno considerati degli indagati e quindi possono anche avvalersi, se vogliono, della facoltà di non rispondere. E certo, in quel caso poi anche la componente emotiva, diciamo. Emotiva, sappiamo bene cosa può avere vissuto uno di questi soggetti. Avete visto anche casi in cui in aula non sarà sentita di confermare le accuse agli scafisti? Certo. Anche perché sappiamo bene i problemi che hanno questi soggetti, cui hanno anche paura o degli scafisti o della giustizia. Avete chiaramente specificato, ribadito che non è stata mossa alcuna contestazione nei confronti dei pescatori che hanno dato i primi soccorsi ai migranti che erano in difficoltà. C'è anche una sorta di conflitto, c'è la legge che stabilisce il favoreggiamento del reato di immigrazione clandestina, ma c'è anche l'obbligo del soccorso in mare. Ecco, in altri casi a voi è capitato invece di contestare il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina? No, premesso che, come ha detto bene lei, c'è l'obbligo per i comandanti dei pescherecci di dare soccorso, altrimenti si risponde di un reato previsto dal codice della navigazione. In genere posso dire che non ci sono state incriminazioni da parte dei comandanti dei pescherecci, salvo che in taluni casi in passato è accaduto, questi simulatamente stavano lì a pescare, ma in realtà avevano raccolto degli migranti che poi venivano trasportati sulla terra. Erano in rapporti, facevano parte di una stessa rete con gli scafisti, no? Appunto, perché erano un pezzetto dell'attività esecutiva del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Abbiamo avuto dei casi in passato su qualche peschereccio che non è che avesse raccolto per salvataggio alcuni soggetti, ma li avesse raccolto per lucrare, che fosse parte di un terminale di un'organizzazione di tal genere. Nel 2011, ultimo dato aggiornato del Ministero di Giustizia, erano 645 le persone a dibattimento per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, meno dei 768 del 2009 e degli 826 del 2010. Ma se a volte gli scafisti hanno degli appoggi anche dall'altra parte del mare, spesso, come dicevamo, possono contare proprio su una complessa organizzazione che recluta chi è pronto a partire in Siria, riscuote denaro e organizza poi la partenza. Questo hanno ricostruito le indagini, ad esempio, che hanno portato al fermo di 3 scafisti che avevano guidato fino a Pozzallo, nel Ragusano, un barcone, un mercantile danese. I 3 egiziani, neanche di 30 anni, farebbero parte di un meccanismo più articolato e più ampio. Comunque, i viaggi della speranza sono di nuovo il vero affare di spregiudicate bande in Egitto e in Libia, pronti a far partire in qualsiasi condizione migliaia di persone. Soprattutto ora che la situazione di confusione in Libia è aumentata. Un rischio segnalato pure dai nostri 007, che parlano anche di gruppi jihadisti in attesa di approfittare del caos. Un caos che di sicuro agevola la tratta degli esseri umani. Sono già 2.381 le vittime della tratta solo in Italia, secondo l'ultimo rapporto della Commissione europea del 2013. 3 anni fa tutti gli Stati membri dell'Unione hanno segnalato 9.528 vittime, con un aumento del 18% rispetto al 2008. Molti i bambini, il 15%, ma il primato spetta alle donne. E questo è avvenuto nel disinteresse del governo, accusa Alberto Mossino dell'associazione PIAM. Tramite i flussi del Mediterraneo, tramite Lampedusa e i balconi, si mischiano anche persone che sono trafficate. I trafficanti tante volte utilizzano anche questi grossi canali per mettere dentro la propria merce, che in questo caso sono le persone dedicate. Però diciamo che la tratta per fini di sfruttamento sessuale, la tratta della prostituzione, principalmente è gestita da grosse organizzazioni criminali transnazionali che ormai da quasi un ventennio si sono specializzati in questo e non trafficano con visti falsi, con documenti contraffatti, con voli irregolari, cioè. Queste carrette del mare in genere non hanno alle spalle una organizzazione tale da portare ad una configurazione di una tratta di esseri umani. È ovvio che anche lì si trovano episodi di tratta, situazioni di traffico di esseri umani, non sono trafficanti inseriti nelle reti della corruzione delle ambasciate, dei visti falsi, dei business con gli aeroporti, che riescono a far passare decine di giorni di donne o di uomini al giorno senza tutto quello che comporta Lampedusa, cioè proprio nell'anonimato, come se fossero normali turisti, pellegrini o uomini di affari o ricongiungimenti familiari. 2 anni fa, durante l'emergenza Nord Africa, anche attraverso Lampedusa sono passate, diciamo, donne che dovevano essere portate in Italia con lo scopo, diciamo, di portarle sulla strada. Sì, diciamo anche che tante volte i percorsi di povertà, di emigrazione iniziano con magari una volontà personale di scappare, di cercare un futuro migliore, non si ha neanche magari la consapevolezza di essere trafficati o essere adescati da trafficanti. Poi però magari il viaggio, il deserto, la permanenza in Libia, le situazioni della vita portano a essere poi dopo agganciati da trafficanti e essere poi immessi nel circuito dello sfruttamento, anche se questa non era magari l'idea di partenza. Una cosa dunque è certa: la disperazione di popoli interi e la ricerca di un futuro migliore è sempre più il business di trafficanti di morte, senza scrupoli, e ancor di più investirà la nostra isola ponte tra Europa e Africa, Lampedusa, l'isola che tanti vorrebbero candidare al Nobel. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare tutte le puntate, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, dove ci sono anche le foto che abbiamo scattato a Lampedusa, e su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti!